Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti da Teresa e benvenuti ad una nuova puntata di Van Loon, a cura del Caso S. Van Loon come Henrik Willem, noto storico e divulgatore olandese. Caso S come il gruppo di studentesse e studenti bolognesi che ha dato vita ad un progetto di comunicazione storica. Saranno loro ogni due settimane a parlarci proprio di storia, sottoponendoci di volta in volta approfondimenti e spunti di riflessione anche legati ad argomenti di attualità. In questa 11ª puntata, nel bel mezzo degli europei, il Caso S ci parla di calcio e per la precisione di soccer. Socrates, giocatore brasiliano dalla storia decisamente particolare. Sentiamo. Ciao a tutte e tutti da Elena ed Epson. Anche per quanti disinteressati o non appassionati, è impossibile negare che il calcio riguardi un po' tutti noi, soprattutto ora che sono iniziati gli europei e soprattutto se si abita in Italia. Nel nostro paese il calcio sembra avere qualcosa in più. Oltre ad essere un gioco e un business, è anche un mito nazionale popolare, capace di penetrare tutti i livelli della società con una forza tale da portarci, volenti o nolenti, a relazionarci con esso. Ma già da un po' di tempo l'unica immagine che abbiamo del calcio è quella di un mondo corrotto, dedito solo a denaro e scommesse. Almeno per oggi, però, vorremmo mettere tra parentesi il calcio delle cronache nazionali e mettere in luce il suo lato più appassionato e romantico, portando ad esempio la vita di Socrates, calciatore brasiliano venuto a mancare il dicembre scorso. Antifascista, medico, cappellone e capitano della nazionale brasiliana nell'82 e nell'86. Certo è che l'immagine di questo fantastico giocatore è molto lontana da quella dei giocatori frivoli e corrotti che invadono i media ai giorni nostri. Anche nel look era originale, con quei capelli un po' lunghi e la barba folta, a ricordare il suo idolo, il rivoluzionario Ernesto Che Guevara. Socrates nacque in una famiglia benestante e il nomignolo che lo rese famoso, appunto Socrates, lo conquistò grazie alla sua passione per la cultura, l'arte, la musica e soprattutto la politica. Iniziò la sua carriera da professionista nel Botafogo di San Paolo nel 74 e durò fino al 78. Nonostante numerose offerte da parte dei club più prestigiosi, Socrates preferì completare gli studi in medicina prima di accettare qualunque trasferimento. Subito dopo entrò nella squadra del Corinthians di San Paolo, una squadra popolare fatta per gli strati più bassi della società. Questa squadra era stata fondata nel 1910 da un gruppo di operai e manovali prevalentemente portoghesi, spagnoli e italiani. Dall'incontro con Socrates non poteva che nascere un'esperienza eccezionale, ovvero la cosiddetta democrazia corintiana. Questa consisteva nella partecipazione di tutti i giocatori e di tutto il personale tecnico della squadra a tutte le decisioni, da quelle sportive a quelle amministrative e societarie. Ogni giocatore era responsabile di se stesso senza ritiri e senza divieti. Ma oltre ad essere rivoluzionaria dal punto di vista della gestione interna, la squadra rappresentava una bella sfida al regime dittatoriale brasiliano, che affamava la popolazione e reprimeva ogni dissenso. Una netta contrapposizione tra il malgoverno del paese e la gestione dal basso di una delle squadre più famose del Brasile, costruita per eliminare il ruolo unico dell'allenatore. Questa esperienza, oltre ad essere significativa a livello politico e simbolico, registrò dei successi anche in termini agonistici e sportivi. Il Corinthians vinse ben due campionati nei 3 anni di esperienza democratica, rientrando al contempo dei debiti accumulati nella precedente gestione. I giocatori, inoltre, ben consapevoli dell'esempio che potevano dare, scendevano in campo sfoggiando maglie prive di sponsor, ma con su una scritta, ben visibile a decine di migliaia di tifosi, la parola democrazia. Dopo 3 anni, Socrates annunciò che o cambiava il regime o lasciava il Brasile. Così il calciatore volò in Italia, negli spogliatoi della Fiorentina. Durante un'intervista, alla domanda «Qual è l'italiano che stimi di più?», il brasiliano rispose «Antonio Gramsci». Il soggiorno italiano non fu un'avventura esaltante. Socrates era dedito alle sigarette, alla birra e alle lunghe nottate passate a discutere di politica. Non scoppiò mai l'amore per la squadra di Firenze, che sicuramente era troppo distante dal calcio in cui era cresciuto. Nel frattempo, in Brasile, le grandi manifestazioni popolari di Rio de Janeiro e San Paolo misero fine alla dittatura ed iniziò un periodo di graduale transizione verso la democrazia, che avrebbe portato alle prime elezioni presidenziali libere solo nel 1989. Socrates tornò in Brasile per giocare nel Flamengo e nel Santos, per lasciare definitivamente nel 1988 e darsi alla carriera di telecronista. alcol e sigarette lo portarono alla morte la domenica del 4 dicembre del 2011. La morte di Socrates ha ovviamente segnato la domenica calcistica di tutto il Brasile, che si è chiusa proprio con lo scudetto al Corinthians. Prima dell'inizio dell'incontro ci fu un minuto di silenzio in memoria del giocatore e sia il pubblico corintiano sia i giocatori in campo alzarono il braccio con il pugno chiuso, lo stesso gesto che faceva il dottore dopo ogni gol. Nel panorama del calcio mondiale, altri grandi campioni hanno mostrato criticità nei confronti delle istituzioni calcistiche sempre troppo dipendenti dai poteri politici ed economici. Per fare due nomi illustri, tra mille contraddizioni, ricordiamo Diego Armando Maradona e George Best. Ma non sono mancati neanche i ribelli nostrani, a partire da Paolo Sollier, calciatore professionista e militante di Avanguardia Operaia, per arrivare fino a Simone Farina, il calciatore del Gubbio che ha detto no ai soldi sporchi del calcio scommesse. Un altro esempio di calcio differente è quello della sottocultura ultras, un mondo che viene rappresentato dal giornalismo come una realtà fatta solo di odio e violenza verso l'altro, tralasciando l'importante contributo dato da molti gruppi ultras nel farsi i primi contestatori del calcio moderno e dei suoi perversi legami con gli interessi economici dei diritti televisivi. Per non parlare ad esempio dell'importante ruolo che hanno avuto le tifoserie egiziane e tunisine nella primavera araba dell'anno scorso. Un mondo, insomma, fatto anche di solidarietà e impegno civile. Il calcio, per concludere, racchiude in sé, come tutti i fenomeni di massa, contraddizioni interne prodotte non tanto dal sentimento sportivo, quanto da cause economiche che ne hanno avvelenato lo spirito originario. Ma tra queste contraddizioni escono a testa alta esperienze come quella di Socrates, che ha insegnato al Brasile e al mondo intero come anche tirando il calcio a un pallone o gridando dalle gradinate degli stadi sia possibile mandare un messaggio di impegno civile e sociale. E con queste riflessioni vi salutiamo e vi invitiamo a visitare il nostro sito www.casos.org. E alla prossima puntata!